Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. K stava ancora davanti al cartello attaccato al muro, quando un uomo arrivò in cima alla scala. Guardò attraverso la porta aperta nella stanza, dalla quale si poteva vedere anche la sala delle udienze. Infine chiese a K se non aveva visto lì, poco prima, una donna. «Lei è l'usciere del tribunale, no?» chiese K. «Sì», disse l'uomo. «Ah, lei è l'imputato K. Ora la riconosco anch'io. Benvenuto». E porse a K, che non se lo sarebbe aspettato, la mano. «Oggi non è fissata nessuna seduta», disse poi l'usciere, dato che K taceva. «Lo so», disse K, osservando la giacca borghese dell'usciere, che come unico distintivo ufficiale mostrava, accanto a bottoni normali, anche due bottoni dorati che sembravano staccati da un vecchio pastrano da ufficiale. «Poco fa ho parlato con sua moglie. Non è più qui. Lo studente l'ha portata dal giudice istruttore». «Vede», disse l'usciere, «me la portano sempre via. Oggi è ben domenica, io non sono tenuto a nessun lavoro, ma solo per allontanarmi da qui mi spediscono via con un'ambasciata certamente inutile. E non mi mandano lontano, così che spero sempre, se faccio molto in fretta, di rientrare forse ancora in tempo. Corro dunque più che posso. Quando sono arrivato all'ufficio di destinazione, attraverso la fessura della porta, grido la mia ambasciata ansimando a un punto tale che a stento riescono a capirla. Torno di corsa, ma lo studente ha fatto ancora più in fretta di me. D'altra parte aveva anche meno strada da fare, doveva soltanto scendere la scala del solaio. Non fosse la paura di perdere il posto, avrei da un pezzo spiaccicato lo studente qui contro il muro, qui vicino al cartello. Me lo sogno di continuo, tenuto fermo qui, a un palmo dal pavimento, le braccia distese, le dita divaricate, le gambe storte che formano un cerchio e tutto intorno schizzi di sangue. Ma fino adesso è stato soltanto un sogno. «Non c'è altro da fare?» chiese K sorridendo. «Non saprei come», disse l'usciere. «E ora sarà anche peggio. Fino adesso la portava soltanto a casa sua. Ora, come del resto mi aspettavo da un pezzo, la porta anche dal giudice istruttore». «Sua moglie non ha in questo nessuna colpa?» chiese K facendo un certo sforzo su se stesso, tanto si sentiva anche lui adesso geloso. «Ma certo», disse l'usciere. «Lei anzi ha la colpa maggiore. È stata lei ad attaccarglisi. Quanto a lui, corre dietro a tutte le donne. Solo in questa casa è già stato buttato fuori da 5 appartamenti in cui si era infilato. Mia moglie, d'altra parte, è la più bella della casa. E proprio io non mi posso difendere». La conversazione sembrava essergli diventata un po' incresciosa, perché li interruppe col dire: «Ora devo presentarmi in ufficio. Vieni con me?» «Non ho nulla da farci», disse K. «Può dare un'occhiata negli uffici. Nessuno le baderà». «C'è qualcosa che valga la pena di vedere?» chiese K, incerto, ma con una grande voglia di andare. «Ma», disse l'usciere, «pensavo che l'avrebbe interessata». «Bene», disse K alla fine, «vengo con lei». E prese a salire la scala più svelto dell'usciere. Nell'entrare mancò poco che cadesse, perché dietro la porta c'era ancora un gradino. «Non hanno molti riguardi per il pubblico», disse. «Non si usano riguardi per nessuno», disse l'usciere. «Guardi qui che sarà d'aspetto». Era un lungo corridoio con rozze porte che introducevano nelle varie sezioni del solaio. Benché mancasse qualsiasi fonte di luce diretta, il buio non era completo, perché alcune sezioni avevano sul corridoio, invece di usci compatti, semplici cancelli di legno che però arrivavano al soffitto e facevano trapelare un po' di luce, lasciando anche vedere funzionari seduti a scrivere o addirittura in piedi accanto al cancello mentre guardavano attraverso le fessure le persone nel corridoio. Forse perché era domenica, nel corridoio c'erano poche persone. Avevano un'aria molto modesta. A intervalli quasi regolari sedevano sulle due file di lunghe panche di legno, poste ai lati del corridoio. Erano tutti trascurati nell'abito, sebbene dall'espressione del viso, dall'atteggiamento, dal taglio della barba e da molti piccoli particolari indefinibili, la maggior parte mostrasse di appartenere alle classi superiori. Nessuno si teneva in posizione eretta. Avevano la schiena curva, le ginocchia piegate. Sembravano mendicanti. Capa aspettò l'usciere rimasto un po' indietro e disse: «Come debbano essere umiliati quelli?» «Sì», disse l'usciere. «Sono imputati, tutti quelli che vede qui sono imputati». «Davvero?» disse Kappa. «Allora sono miei colleghi?» E si volse al più vicino, un uomo alto, magro, ormai grigio. «Cosa aspetta qui?» gli chiese Kappa con gentilezza. La domanda inattesa sconcertò l'uomo e la cosa sembrava tanto più penosa in quanto si trattava visibilmente di persona con pratica di mondo, che altrove sapeva certo come comportarsi e non rinunciava facilmente alla superiorità acquisita su molti. Ma lì non era in grado di rispondere a una domanda tanto semplice e guardava gli altri come se fossero tenuti ad aiutarlo e come se nessuno potesse esigere da lui una risposta senza quell'aiuto. A questo punto l'usciere si fece avanti e disse, per tranquillizzare e incoraggiare l'uomo: «Il Signore chiede soltanto che cosa aspetta. Risponda!» La voce dell'usciere, da lui probabilmente conosciuta, ebbe miglior effetto. «Aspetto», cominciò quello e si interruppe. «Un mese fa chiesi l'ammissione di alcune prove nella mia causa e aspetto una decisione». «La cosa sembra prenderla molto», disse Kappa. «Sì», disse l'uomo. «Si tratta della mia causa». «Non tutti la pensano come lei», disse Kappa. «Anch'io, per esempio, sono imputato, ma non ho chiesto nessuna ammissione di prova sulla salvezza dell'anima mia, né avviato nulla di simile. Lei pensa sia necessario?» «Non so di preciso», disse l'uomo di nuovo del tutto incerto. Evidentemente credeva che Kappa scherzasse. Per timore di commettere un nuovo errore, avrebbe forse preferito rispondere come prima. Ma davanti allo sguardo impaziente di Kappa disse soltanto: «Per me ho chiesto l'ammissione di prove». «Lei non crede che io sono imputato, vero?» chiese Kappa. «Come no, certo», disse l'uomo facendosi un po' da parte, ma nella sua risposta non era convinzione, bensì solo paura. «Dunque non mi crede?» chiese Kappa, e spinto inconsciamente dall'umiltà dell'altro, lo afferrò per un braccio come per costringerlo a credere. Ma non voleva fargli del male. L'aveva anzi appena stretto. Ciò malgrado l'uomo gridò come se Kappa non lo avesse afferrato con le due dita, ma con una tenaglia rovente. Questo grido ridicolo finì con l'indisporre del tutto Kappa. Se non credevano che era un imputato, tanto meglio. Forse quello lo prendeva addirittura per un giudice. E nel congedarsi lo strinse davvero con più forza, lo respinse verso la panca e proseguì: «La maggior parte degli imputati è così suscettibile», disse l'usciere. Kappa non si curò a lungo di lui né della gente nel corridoio, specie perché a metà circa del corridoio vide la possibilità di piegare a destra, infilando un passaggio senza porta. Volle sapere dall'usciere se quella era la via giusta. L'usciere annuì e Kappa entrò nel passaggio. Lo infastidiva davvero camminare sempre uno o due passi davanti all'usciere. Poteva sembrare, almeno in questo posto, che fosse in arresto. Aspettava dunque spesso l'usciere, ma questo rimaneva subito indietro un'altra volta. Thank you. K, per mettere fine al suo disagio, disse: «Ora che ho visto com'è il posto, voglio andarmene». «Non ha ancora visto tutto», disse l'usciere con aria candida. «Non voglio vedere tutto», disse K, che del resto si sentiva davvero stanco. «Voglio andarmene. Come si arriva all'uscita?» «Non si è mica già smarrito?» chiese l'usciere stupito. «Lei va fino all'angolo, prende il corridoio a destra e arriva dritto alla porta». «Venga con me», disse K. «Mi mostri la strada, non la troverò, ce ne sono tante». «È l'unica strada», disse l'usciere in tono già di rimprovero. «Io non posso tornare indietro con lei. Devo recapitare il mio messaggio e ho già perso troppo tempo per lei». «Venga con me», ripeté K con voce più dura, quasi avesse colto l'usciere a dire una menzogna. «Non gridi a quel modo», disse l'usciere. «Qui ci sono uffici dappertutto». K non aveva ancora considerato l'ambiente in cui si trovava. Solo quando una delle tante porte di legno lì intorno si aprì, vi diresse lo sguardo. Apparve una ragazza, certo richiamata dalla voce alta di K, e chiese: «Cosa desidera il signore?» Dietro di lei, lontano nella penombra, si vide avvicinarsi un uomo. K guardò l'usciere. Questi aveva detto che nessuno si sarebbe interessato di K. E ora si facevano avanti già due persone. Ancora un poco e tutti gli impiegati l'avrebbero notato. Avrebbero voluto avere una spiegazione della sua presenza. L'unica ragionevole e accettabile era che lui era imputato e che voleva conoscere la data del prossimo interrogatorio. Ma proprio questa spiegazione non voleva darla. Specie perché non era neppure vera, in quanto lui era venuto solo per curiosità. O spiegazione ancora più assurda per il desiderio di constatare che l'interno di quel tribunale era ripugnante come l'esterno. E aveva l'impressione di essere nel giusto pensando così. Non voleva andare oltre. Era abbastanza oppresso da quanto aveva visto fino a quel momento. Non si sentiva più la forza di tenere testa a un alto funzionario che poteva apparire dietro ogni porta. Voleva andarsene, con l'usciere o anche solo, se era necessario. Ma quel suo starsene in moto, in silenzio, doveva sembrare strano. E in realtà la ragazza e l'usciere lo guardarono come se un momento dopo dovesse subire una grande trasformazione che non volevano mancare di seguire. E nel vano della porta stava l'uomo che K aveva visto prima da lontano. Si teneva con le mani nell'architrave della porta bassa e si dondolava un po' sulla punta dei piedi come uno spettatore impaziente. Ma la ragazza fu la prima ad avvedersi che il comportamento di K era dovuto a un leggero malessere. Portò una sedia e chiese: «Non vuole sedere?» K sedette subito e per sostenersi ancora meglio appoggiò i gomiti sui braccioli. «Le gira un po' la testa, vero?» chiese quella. Il viso di lei, ora vicino al suo, aveva l'espressione severa che certe donne hanno proprio nel fiore della giovinezza. «Non si preoccupi», disse. «Qui non è niente di strano. Quasi tutti hanno un attacco del genere la prima volta che vengono». La ragazza poi aggiunse: «Qui non può rimanere, qui intralciamo la circolazione». K chiese con delle occhiate quale circolazione intralciasse. «Se vuole la conduco in infermeria. Mi aiuti, per favore», disse all'uomo sulla porta, che subito si avvicinò. Ma K non voleva andare in infermeria. Voleva evitare proprio che lo portassero ancora avanti. Tanto più avanzava, di tanto peggiorava la situazione. «Posso camminare da solo?» disse quindi. E ormai viziato dallo stare comodamente seduto, si alzò tremando. Ma poi non riuscì a rimanere in piedi. «Non va proprio», disse scuotendo la testa, e con un sospiro si rimise a sedere. Si ricordò dell'usciere che, nonostante tutto, avrebbe potuto senza difficoltà portarlo fuori, ma quello sembrava andato via da un pezzo. Thank you. Io ritengo, disse l'uomo che era vestito con eleganza e dava nell'occhio per un panciotto grigio che terminava con due lunghe punte di buon taglio, che il malessere del signore sia dovuto a quest'aria. Perciò sarà meglio, e anche lui lo preferirà, non portarlo prima in infermeria, ma addirittura fuori dagli uffici. Proprio così, esclamò K, cui la gioia fece quasi interrompere il discorso dell'uomo. Starò certo subito meglio. Non sono poi tanto debole. Mi basta essere appena sorretto sotto le ascelle. Non darò loro troppo disturbo. La strada non è neppure lunga. Mi portino solo fino alla porta. Siederò ancora un po' sui gradini e mi riprenderò subito. Non è che soffra di questi attacchi, eh? Sono io il primo a stupirne. Anch'io sono funzionario e abituato all'aria degli uffici, ma questa sembra davvero troppo cattiva. Lei stesso lo dice. Vuole essere così gentile da accompagnarmi un po'. Mi gira la testa e mi sentirei male se mi alzassi da solo. E sollevò le spalle per permettere ad entrambi di prenderlo sotto le braccia. Ma l'uomo non accolse l'invito. Continuò invece a tenere tranquillo le mani nelle tasche dei calzoni e rise forte. «Vede?» disse alla ragazza. «Ho indovinato! Solo qui il signore non si sente bene, non in generale!» La ragazza sorrise a sua volta, ma colpì appena con la punta delle dita il braccio dell'uomo, come se quello si fosse permesso con K uno scherzo troppo spinto. «Ma che le pare?» disse l'uomo continuando a ridere. «Porterò io fuori il signore, sul serio!» «Allora va bene», disse la ragazza chinando per un momento il capo grazioso. «Non dia troppa importanza a quelle risate», disse la ragazza a K, che di nuovo triste teneva lo sguardo fisso davanti a sé e non sembrava chiedere nessuna spiegazione. «Questo signore, posso presentarla?» Il signore con un cenno glielo consentì. «Questo signore, dunque, è l'informatore. Dà alle parti che aspettano tutte le informazioni che chiedono, e siccome il nostro tribunale non è molto conosciuto dalla popolazione, vengono chieste molte informazioni. Egli sa rispondere a tutte le domande. Una volta che ne ha voglia, può metterlo alla prova. Ma non è questa la sua sola distinzione. La seconda distinzione è l'eleganza del vestire. Quanto a noi, come può vedere da me, siamo purtroppo vestiti molto male, con abiti fuori moda. D'altra parte non ha nemmeno molto significato spendere per gli abiti, perché stiamo quasi sempre negli uffici, dormiamo persino qui. Ma per l'informatore, ripeto, abbiamo ritenuto indispensabili dei begli abiti, visto però che non si potevano ottenere dalla nostra amministrazione, che a riguardo è un po' strana, facemmo una colletta, alla quale contribuirono anche gli imputati, e gli comprammo questo bell'abito e altri ancora. Tutto sarebbe ora preparato per fare una buona impressione, ma con le sue risate lui rovina tutto da capo e spaventa la gente. «È così», disse l'uomo ironicamente. «Ma non capisco perché, signorina, lei racconti, o meglio imponga, tutte le nostre questioni interne al signore, che non ha nessuna voglia di conoscerle. Guardi solo come sta seduto, tutto preso, è evidente, dai suoi casi». K non ebbe neppure voglia di replicare. L'intenzione della ragazza poteva anche essere buona. Forse tendeva a distrarlo, a dargli la possibilità di concentrarsi. Ma i mezzi erano sbagliati. «Dovevo spiegargli il suo riso», disse la ragazza. «Era offensivo». «Credo che perdonerebbe offese ancora peggiori se mi decidessi a portarlo fuori». K non disse nulla. Non alzò nemmeno lo sguardo. Lasciava che i due lo contrattassero come una cosa. Anzi, lo preferiva. Ma a un tratto sentì la mano dell'informatore su un braccio e la mano della ragazza sull'altro. «Andiamo, si alzi, uomo debole», disse l'impiegato. «Grazie infinite a tutti e due», disse K, piacevolmente sorpreso. Si sollevò adagio e guidò lui stesso le mani estranee sui punti in cui aveva più bisogno di essere sostenuto. Terzo anello, ad alta voce. Il processo di Franz Kafka.